Ah, era per Ru. E beh, già. L'unica è già vaffanculo, è speso, vabbè, pazienza, però sempre tranquillo e tutto. Quanto già? 2,50 tra antenna, palo, tiranti, io faccio 100 metri di tiranti, poi ce ne avanza. Ce ne avanza, non è per facile di uscire di tiranti, come sono adesso, io devo andare oggi. Perché non mi ha mai dato problemi, quindi lo devo fare così come lo capisco. Sì, dai, poi già... Da trovo qua, Claudio, cioè, no, come la misi di tiranti? Come? E ha problemi con il cane e con quelle problemi là. Non si deve portare la medicina. Non si deve portare, anche se la medicina è un vantaggio. E forse quando sono in calore non si sposano, capisco che si deve lì. Forse quando si fa impazzire. No, non mi sporcava tutta la casa, a casa, la casa, già, non ho capito se siete tratti. E non sta arrivando bene oggi. Stavi dicendo? La mia, guarda, la porta è solo vicino a casa, sempre non è l'hanno operata, abbiamo fatto la fisioterapia, si è mandato di su, ma non c'è stessa. Certo, questa è la vicina di vabbè, finché campa, c'è Murgi. Pazienza, cioè, purtroppo sembrano i cristiani, non vuole i cani. Praticamente ce li ha le cose, capito, le... tra i cosi, come si chiama, le balucci, la fanti. Palluccio, allora. Io l'ho detto che l'ho chiesto 450 euro, però non si sa se è vivo o morta. Vabbè. Una volta si fa defusa dall'orecchio, ma l'altra volta povata. Stavo speso tra medicine e visita 70 euro. Vabbè, andiamo di qua. Già, cane ha un costo. Però c'è Dio, dai, l'una, fra quelle tacche là, non mi ha fatto sapere tantissimo. c'è la visita, i vaccini, così 50 euro, quello se l'ho più fatto. E poi, vabbè, questa visita che avevamo fatto, in più queste medicine, ma alla fine non è più costata. Lo carriero, dice. Sì, ah già, che fine hai fatto? Stava troppo bene, non tanto. Perché non ho ricordato, sono andato da Brico a comprare il palo, le crociere, cazzo qui. Non sai cosa mi è successo? L'ho tenuto in mano. Sono arrivato alla casa, ho pagato tutto, cazzo, se ne stavo a mano, dicevo che mi crociere in mano, cazzo. Sono appendente, quindi devo pagare tutto. Poi per palo, solamente mi sono abituato, non mi sono reso conto di averlo. Dice si prende per 1,32 euro. Ha detto no, ma si figura, una solo, solo restai una solo. Sì, già non hai capito. Adesso meglio, pare rifugiato. Cosa? E ascolti? Adesso sì. Ho detto che sono andato da Pico, ho fatto il palo, è una crociera finita. L'ho tenuto in mano, ho pagato tutto il giusto, ho fatto tutto in mano. Cazzo, mi sono ritrovato che non l'avevo pagato, sono stato a biglietto a pagare. Non te l'ho fermato neanche. No, non se ne sarebbero mai fatto uno. Però l'avevo preso in mano, quindi non ce ne sarebbe mai accorta. E le ho detto, sì, e stava partendo, stavo facendo una messa in galera per 1,35 euro. Se io avessi voluto, l'avrei fregato, sarei andato dritto, non ce ne sarebbe mai accorta. Siccome l'onestà è una, le ho detto, può essere 1 euro, può essere 100 euro. Io sono onesto, se ritorno indietro e pago quello che prendo. Qua, capita comunque. Che sto dicendo che non mi sono messo una colpa, sono tornato io e ho detto di mia compagna volontaria, se sono riguardi il 31, non mi sono reso conto che c'era in mano questa parte. Beh, lo sono tutti, lo fanno comunque, vabbè. Un altro ha passato dritto e aveva portato. Ah, io non sono di qui. E loro sono in testa, è fatto qua. E adesso non ho mai comprato niente. E pari quali ha preso, già quel telescopico? Sì, da 6 mesi. Dovrà uscire un bel lavoro, eh. 6 mesi di palo, 100 metri di tirante, e grazie, è uscito anche per l'ultima, solo che non si trova. E vabbè, è tutto nuovo, ascolta, è il palco. Tu sei in una stanza sbagliata, secondo me, ma sempre da dove vuoi riserva questa modula? Sempre da una parte di su, comunque, anche se vado di là, sempre da questa parte di su, da parte tua. E a volte mi arrivi più basso, anche. Non ti sei convento, tu? No, sono fermo già. E il cavo della terra c'è già? Sì, il cavo l'avevo comprato da, diciamo, da un po' di anni. Poi l'ho parcheggiato, adesso quando mi sentirà lui, non l'ho mai usato, però si è già attaccato il piede, quello che va più, l'ho già attaccato di modo che non si rompa le scarpe. Sì, ma bisogna farlo da presto un lavoro, Di, allora, di venerdì o di sabato, perché lunedì e giovedì sono a piedi, allora martedì, mercoledì o venerdì o sabato. Adesso con Claudio dobbiamo comprare il cane sul rispetto perché può pensare il cane, dice che si può ricordare. Lo so perché la fa cambiata e si dice che lo e praticamente se lui, io mi auguro che non sta subito, se questo che non può fare dopo mi viene anche la mia, non è che sia vicino. E fatto sta che come ci dico, a Claudio le dobbiamo affrontare, già tutta la roba di. E il capo facciamo scendere, di nuovo che quando io quando mi arriva l'antenna dovrà più. Ah beh certo, chi è vuole entrare avanti? Se qualcuno vuole entrare avanti. Sì, ciao Enrico, in realtà ci ha provato, dai, alla fine ci ha messo un po' di tempo per farla, vuol dire che magari non sarà un piccolo accorgimento ancora, che lui magari non è riuscito a trovare. Ormai l'ha presa quella, com'è che si chiama volantere della controllo? Come si chiama quella che hai comprato tu? Game Master, Game, con la Y, con la Y, Master. È una terra leggerissima, ha presa poco. Non me ne frega nulla, ma ci altri di questo lo stesso, perché si può dire che la guarda, come è scritto, com'è la G? Gai, Gai, con la Y finale, Gai, con la Y, dimmi le lettere, Gia, I, Ro, I, Ro, Master, Master, no, si scrive guide, master, appena si dice guide, no, guide, guide, G-A-I-S, no, G-A-I-S, master, vabbè, comunque quella, c'è su 159, 169, aspetta, sì, 149, 149, Sì, Allora, se te l'hai ordinata, conviene aspettare un po' di giorni e poi te la piazzi. Stavo ascoltando poco fa a Luca. Comunque se si vuole la pubblicità mi fa alzare dal letto con questo sdraiato, cazzo, poi va a dirmi che c'è accesso questo telefonico, questa tariffa di telefonico, c'è da registrare, non mi da tutti, mi tengo un libro di e poi no, cambiare, che tanto sono tutti le matte siso. Ah, lo faccio controlla con il computer prima per vedere quanto stai andando, se stai andando a 1000 c'è la fibra ottica, se no c'è la linea normale, ma ti ingannano i bus, ingannano, io ho bisticciato con la fibra. Ah no, io c'ho la fibra ottica. Sì, è un buco meridiano che viene via. Quando ho guardato nel computer quanto stavo andando, mi sono accorto che era una linea normale. 64 megabyte, fibra ottica è. No, 64 megabyte no. Allora devi essere a 1000, devi essere, ma se tu devi essere veloce, con la fibra ottica. Io sono veloce, solo che a volte sono finciare che manca. E se io ti devo connettere con la posizione dell'altro. Quello è con la fibra ottica, non dovrebbe mancare nulla, non dovrebbe, perché è tutto automatico, hai capito? Io ho bisticciato con la team, ho bisticciato per questa cosa qua, e mi dicevano che stavo andando velocissimo e cose, guardo nel computer e ricordo la linea, e io già era 64 megabyte, e io sono occupato lì. Non vede neanche pagosa, adesso me l'hanno scalata e me ne levano pure. Adesso mi ci sono altri 30 giorni, avrò il resto dei soldi. Sì, ma da un bel bellissimi, da un bel male bottito. Infatti ho detto, no, ma sapete chi fregare, se la boccare subito, dite che c'avete la linea veloce e cose, ma dove? C'è la fibra ancora qua, c'è, però non è attiva lì. Ma guarda, ce la dovrebbe avere la team direttamente, perché la moda poi è attaccata alla team. Ce ne prende i dati dalla team, quindi non è la moda qua. Ma dove ci sono, anche se stanno passando i capi, non siamo ancora collegati, ecco cos'è. È normale la linea. Sì, guarda, non vedi pubblicità, questo e quell'altro ti curano un montone di idea. Infatti io ho bisticciato con loro, mi stavano prendendo per il sedere, ho detto, prendetemi questa cosa qua della linea veloce perché non c'è ancora. State facendo pagare una cosa che non ho. Quindi, se tornatemi i soldi di quelli che mi avete rubato, è tutto quanto. Sono io, mollo tutto quanto così com'è, e non dovrò pagare nulla perché faccio una brutta pubblicità a Giulietti. Ma tu dice, va bene, adesso io gliela tolgo e gliela metto ancora in bolletta, prima mi arrivi al 45, 50, ma mi arrivi ai 30 euro in bolletta. Invece dovrebbe essere di meno, dovrebbe essere, perché se tu controlli il computer, lo apri con le cose della connessione e vedi cosa di velocità ti sta dando. Sai, io ho telefono, ma neanche cavato, oggi ho buttato solo che sicuro cioè i telefonini, si possono chiamare già i telefonini. Infatti bisogna lì dalla pubblicità, che c'è un poco. E la pelata mi sono i cancellini. Ma io lo sarei quando ce l'ho collegato al computer, quindi non fa col capo. Si fa solo la risposta. Alla risposta, non per fuori. Se ne fuori la risposta fa con tanta la risposta, però se non te ne fuori fa di... Così è. Sai se fai che c'è di buco? Sì, adesso sì. Sì, perché tanto la risposta è importante, c'è una volta che avevo di testa, di bene, no? Ciao. Ciao Luca. Stanno bene. Ascolti una cosa, solo a parte tutte le cose. A parte, diciamo, l'occhio destro, più altro. Sì, lo dite. Sì, lo dite. Cioè, infiammazione, praticamente l'arcata sopraccigliare, e poi ti proteggono la parte del naso, la parte della faccia. Anzi, sei fortunato che non ti fa chiudere l'occhio, perché io quando mi è venuto la bocca devo stare con l'occhio appoggiato al cuscino, perché dal colore che c'avevo non potevo stare. Certo, ma si può curare, sì. Ma è un antibiotico, il dottore ha fatto dell'antibiotico, è un coso da aspirare, come si chiama, come si chiama, per la sinusite, perché ti sta iniziando, allora, mi chiede di infarsi, ormai c'è tutto il mio linguaggio, quindi sicuro mi trovava, grazie per la lì. Baci, perché è una cosa che ti... perché sta iniziando quella cosa lì, io ce l'ho avuto, la giubilata in appena la giubilata, mi va a chiamare un capo, mi va a chiamare. Ha iniziato a lei, ho visto che ho fatto 3 anni pure in divina. Sì, sì. E la storia mi sono stato, va bene. Sono più di 3. Sopposte mi hanno utilizzato, sopposte. E stai andando anche in moto. La remota con motore, se con la camera pesce e cose. E lei ha detto che mi ha spiegato a me di minuti. Per tutti i paesi da qua. Se qualcuno vuole lezzare, può lezzare, forse quello che serve. No, lì ci sono solo proprietà, dai, dello microfono, no, non sa entrare. Posso entrare, buonasera, ciao Gianni, ciao Luca, ciao anche attore, a Luca si deve tornare, non ti metti bene, di fronte che siamo, sono negativo, non ascolto nulla. Oh Luca, il supposto deve entrare, solo il supposto deve sapere che ti fa bene, no? Non è importante, ci sono venuti a riesci, però. No, si può stare, io si può stare, no, Marino, se hai bisogno fammi sapere. Per le scuole ci sono per il Luca. Ah, si può stare, che io siamo sicuro. Luca, scusa, già, Luca, non ti ascolto, Non ti ascolto, ti metti bene, io non ti ascolto. Ti ho detto, non è per caso sia venuti a legge, caro. E vabbè, che ascolti, Marino? Ascolto bene, Gianni, non sono Marino, sono Marino già. Ma se sei stato in Marino, come parlare? Ciao, Marino. Buonasera. Ma qua ti arrivi bene, ti arrivano bene già, abbastanza bene. Poi arriva male. Poi la petizione con tutti, sia con la Banova, sia con la Stiglia, non so che sia petizione l'attore. Io non so che sia l'attore. Ma Luca, devo chiamare... Noi siamo in italiani, che io l'ho avuto e non ho dato l'antibiotico, più sono usato l'antitalinico. Si fa male in testa e dolore facciale. Se non ti Luca. E si è offerto. Stiamo dovendo, sapete? Sì, adesso sono offerto. Ma lì, come senti? Adesso ti ho sentito benissimo, già Luca. Ti metti nel solito sistema, bene, già tutto bene. Non cambi nulla, Non cambi nulla. Come nella... Ti ho detto, non è per caso hai la veritia allergica, no? Che io con la veritia allergica uso l'antitalinico e lo spray. E lo spray, che io sono allergico anche, hai capito? Sono composto da te, avanti. Sono da ieri. Tipo ieri stamattina, quando mi sono andato a letto, l'ho trasferito. Poi durante la mattina mi è venuto di nuovo. Perché è perché mi hai poi si comincia a soffiare il naso, la malattia aumenta, capito? Poi è dura, si è preso sulla faccia quasi. Ok, tu riprendila e vai. Dove vado? No, è come stavo dicendo io a Luca. Antibiotico e qualcosa spray. Basta. A me è brasito, mi è durato 2 anni, mi è durato per farlo passare. Però ero in apnea. No, riuscì a facciare un breve. Andare. Ciao signor Mari. Cosa vuol dire che era apnea? Ho capito. Era sott'acqua, Luca, sott'acqua era. Non lo so. Figlia, quando mi è successo ero a 15 metri di profondità ero, quando mi è successo. Mi è giunto un dolore in posto, arruggavo, mi è toccato di scendere in pressa. Hai compreso? Stava pensando la balena, Luca, la balena stava pensando. So perché sono freddo, ma io sono stata a dare una mano a Gianni, lo stesso, proprio un freddo, guarda. Mi sono cancanato. Vabbè. Poi sono andato in piccale io. Freddura quella lì, Luca, poi freddura solo la mattina alle 6, io mi alzo alle 3, poi alle 4 sto scendo e uso il berretto, sono guai. Se non uso il berretto, voglio la cervicale che stai in là quel paese e già soffro poco, tanto sì. Tutto bene, tutte le pastiglie che voglio, ma non mi fa effetto. Devo essere attento e contento e basta. Avanti già. Sì, però, aspetta, però, anche se freddo occhi, non ho fatto mal di testa. Ma te la passa, perché io rimango tutto il giorno mal di testa. Adesso me li sto coprendo, prima ero peggio di te, uscivo giù la mattina, con la testa scoperta, che non via. Adesso sto, prima che li sto coprendo, io di meno, capito? Quando vengo differenziando, prendo solo lo stamico per non ogni sera, l'antistaminico. E ora prendo la spray quando poi ho bisogno. Quando so quando c'ho bisogno e ho senza la manichetta uso lo spray. Avanti. Sì, grazie a Gianni, ma di schiena, finito, la pancia, anche a cucci, finito, che cavolo, ma di testa proprio va di tutto, due giorni, non posso più, guarda, brutto, non c'è cosa più brutta, vabbè, non so cosa più brutta, ma di testa è fastidioso, Ma una cuffia dove ti usare, Luca, una cuffia, ma ti so prendo io. La vecchietta! Ciao, Vittorio! C'avevo la cuffia stamattina! Oh, ottore! Perché stasera no, proprio questo! Però stamattina sì! Devi prendere la cuffia per cantare, Luca, c'è un che fa effetto! Buonasera, signor Giove, avanti! Sto scendendo, vai! Ci sentiamo! Buone cose! Io la cuffia l'avevo più o meno perché ci avevo mal di testa anche la cuffia! Ciao! Ciao, Vittorio, ciao! Ci sentiamo! Ti volevo una cosa, se non mi ricordo, Luca! Non me ne ricordo più! Va bene, dai, facciamo passare la... Ci facciamo avanti, grande. Forse era lui che ti ha salutato. Chi ha salutato? No, mi ha salutato, perché stavo uscendo. No, non ho sentito bene, ok, dai. Ciao, ciao, alla prossima. Ok, signor Bacchiglia, non ho divertito, no? Anche da no, se non entrava... Benissimo. Oh, la cacciare non si è andato, no? Ciao! Ma ti boccio! Faccio le bizzine a accompagnare, andare a ritirare nel tutto. E quando hanno, mi forse ho sabato domenica, se tutto concesso, se non fate freddo. Faccio il nome per copiare, meglio si avanti Luca. Ah, servi chi sei? Mi sei spostato Luca. Ah, ok. Non so mangiare. Ma io ho già mangiato, poi non aspettate le gambe di toccare, Luca. Vabbè. Ma ci vediamo dopo. Però sì, però ho un mal di testa, ma cazzo, è fastidioso. Ti piglia io ti piglio. Non dire a me che sto per lo stesso, Luca, è maledetto. No, non si è capato, io ho avuto nel centro che c'è un problema e adesso l'ho risolto. Appunto, vanno a tenere e ho avuto un macchinario da notte. E la mia trascuranza, però c'è un problema, proprio la cementiera era pazzesca, è pazzesco. Venire la mattina tutto il giorno, tutto il giorno. Poi viene a partire di voi, non mi faccio rispetto. E poi va a chiedere Luca, ma per il tormento fatto lei? No, devo fare le quattro. Da lunedì inizio a prendere queste pastiglie, lo devo mangiare dei legumi, dei farinacci, dei frutti, delle verdure, capito? Ok, mio collega l'ha fatto tu in realtà, l'ha fatto anche io, mio collega, quello che ci vuole pensare. A me sinceramente mi ha fatto la visita al policlinico, la dottoressa mi ha detto, se c'è da pieno l'intervento facciamo qua. Ok, dopo 10 giorni mi hanno chiamato Dossieri, che erano in attesa di intervento. Poi mi abbiamo più chiamato, abbiamo avuto per l'appuntamento a Sassari, prima di fare visita al policlinico. Aveva appuntamento, poi mi hanno chiamato e non potevo andare perché ci manca il medico. Adesso mi hanno chiamato ieri mattina e c'è l'appuntamento per le 14, martedì, per la visita, la stecca bianca. Quando lo vedi ancora? Ma io devo fare, il prelievo del sangue, se lo fai gli esami completi, diciamo, poi devo fare l'elettrocardiogramma, la visita cardiologica. Sono stati, sono i suoi esami che fanno prenderlo, vero che io ho fatto sia per la gamba, sia per il naso e così via. Ho fatto l'analisi del sangue, con il cuore, più una lascia al polmone, l'avevo fatto una volta. E poi c'è la visita con Giuba, la visita con la... e un'altra visita che sono fatta. Mio collega è rimasto 6 giorni, sono andato anche io e poi andato a casa. Ne hanno fatto 4 buchi, ne hanno fatto, è a posto. Adesso sentiamo martedì cosa esce fuori. Quella non c'è fuori, se è il caso, la facciamo, perché io dolori non ne ho. Mio collega c'ha dolori, però io ce l'ho, quella fare la città sempre, che io faccio ogni anno, faccio le visite per il fegato, e infatti risulta, mi risulta una finita che è in fuori, dunque bisogna farlo. Ah, sentiamo, martedì cosa decide il dottore? Ah, che cosa? Sì, ma c'è il signor Battiso, mi ha chiamato la 27. Signor Battiso! Sì, sentiamo il signor Battisio, quindi non l'ha atteso ancora. Andiamo a vedere. Riprendete la Luca. Sì, vabbè, poi devo fare, come ti previ, il sangue, quelli delle viteri, poi l'ho già fatta, la schiena, la urigo, e poi devo fare la colonoscopia. Non ne fai dopo. Io ho la cosa, io ci pensare, perché sono peggio, Però io quando stavo lavorando, io parlo l'anno passato, che voglia, tutti i dolori che avevo, tutti i dolori, non so più di cosa pensare, ho fatto l'attacco, ho fatto questo, però quell'altro, a me non era nulla, alla fine non c'era nulla, mi stavo fissando anch'io, mi stavo fissando. Voglia, avanti, do. Sì, aspetta adesso, è rientrato il signor Battiso. Signor Battiso! Che trovo il gigante? Oh, non mi risponde, né a Rosso, né a 27, né ai nonni. Adesso siamo io stesso, avevo l'applicatore. Attenzione, gigante! Attenzione, Battiso! Ma, non riprende? Sono di Luca, Luca, stare? Venga, adesso sono qua. Porca! Ma chi è costato? Certo, non lo so. Aspetta a vedere. Signor Battiso! Sì, mi ascolti? Adesso sì. Si progiona in avanzura. Riprenditela, buonasera. Buonasera a lei. Vediamo Marino. Buonasera, sono gigante, come andiamo? I miei piedi, non so che sto chiamando. Ogni tanto era una 7:15 e 5:30. Non c'era un buco, non proprio come di cose, che ti pongono, più brutta. Ecco, per stare, c'è il microfono, ma non ve la settore. non è colpa di Tone, guarda, non è colpa mia, non è colpa di Luca, è colpa di Tone. Lei lo so. Sì, ci faccio di fare un bel lago io, no, ma è la sorte che sei a me stessa. Se la dentro mi fa più bene, e poi sono entrato a ultimo io. Che te, signor Bacchi? Hai per il picchettone tutte e due. Sì, io non sono stato un bel veloce, non la sono stato un attimo di bianco, proprio velocissimo. Luca, io dico, le passate, io non si poteva parlare. Guarda, domani è condannato all'ergastolo, domani. Quindi in ufficio, domani torno, ne sentiamo quattro. Ciao Bacchino, io vabbè, se volevi ti lasciavo entrambi, non è che abbiamo fatto il ping pong perché mi stava spiegando un po' per quanto riguarda la mal di testa, e adesso ce l'ho poco ma mi raggio, sono stordito là, diciamo. Prendi, sono Luca, questo mal di testa, non tenerlo, prenditelo, che fai, mi da zio. Non tenerlo con la direttore, Tore, le faccio passare il mal di testa, non so se si può, magari potresti anche regalarlo, ma volentieri. Io mi sono smontato da là, dove non più facevo freddo, sono messo vicino alla stufa, si sta bene. C'ho freddo, tu? Comunque freddura, Luca, è freddura. Freddura. Ma le testa c'è vicino, io la metto lui. Benvenuta, benvenuto. C'ho freddo, ma bene, non hai il suo camion. No, certo, 25 anni, bene. Non l'ho mai pigliato, certo. Tanto, non so come è andato pure con influenza a travagliare, pensa un poco. Luca, comunque io ce l'ho il rimedio, mi. C'è una mossa bella grossa qua, se vuoi. Già, vediamo che poi lo servi più. La capami ancora di più, no. Allora, io qualche anno fa, ma, ti parlo di 20 e più anni, forse anche 30, è un ragazzino. Praticamente ci uscivo, non uscivo da lavoro. Ho fatto tantissimi lavori, ho aiutato il fabbro, falegname, panificio, l'ho curato, vabbè, anche in cantiere, conoscevo da lavoro, andavo a casa, mi facevo la luce, ci uscivo d'inverno, in moto, la testa bagnata, non me lo dicevo, asciugato un gambo, che poi mi dico seguenti, mi infatti mi dico bene di conseguenti. Faceva ragione, mi diceva che per arrivare la testa prima di uscire, poi no, per pulire la gelatina, avevo capito fuso, molto, e vabbè, perché mi aspettava la signorina, capito? Allora, avanti, lo senti a Cristian, lo sentite, avanti Bacchino, ripeto. Sì, benissimo, conosco la Cristian, poi mai non lo sento, ma già lo so, non lo so, mi sento lo sito, ma riesci a capire qualcosa, sì. Mi mettiamo ancora un micro a Cristian, avanti Cristian, se ne puoi riscaldare gli altri. Allora, mi sono ancora troppo avvicinato, troppo facile per l'amore. La squadra ti ascolta Tore, ma Marino no, non lo so, lo ascolti anche te Marino. Ascolto, ma è un po' a livello polemico, a Luca, a livello polemico, se si sposta leggermente, per non provare che lo ascolto meglio, Si sposta leggermente. Io sono solo stato con il punto, io sono stato a cacciolo, dai, sono fuori, io sono a dopo, dai. Ma negativo Luca, sempre turbato, sempre tipo tu con ti sposi leggermente, capito Luca? Da dove stiamo lavorando Cristian? Qua in zona vicino a noi, dai. È in zona. Ok, dai, che a dopo, siamo qua, forse. Penso ancora un quarto d'ora, poi devo andare a mangiare. Avanti, Toro, tu l'hai ascoltato, penso di sì, dai, avanti. Poco, quasi zero. Poco e nulla. Ma io l'ascoltavo, solo era... C'era un modo per venire, hai capito? Un modo per venire. Poi la sentivo la cosa, avanti, Luca. Ma questa posizione, poi mi ascolti, Marino. Ascolta bene, c'è sempre leggermente un po' di quel regno, comunque c'è il scattato di cuore, no? Positivo anche la parte tua, ci arrivi bene comunque, avanti, Bacchino. Io sono già un ritiro, Luca, avanti, Bacchino. Sì, ti arrivo bene, Luca. Senti, è chiaro, frate Cristian, un po' di quel regno, sì, però, deve essere più vicino alla Luca che a me. così mi viene il numero. E lì, hai fatto a cielo, la tavola di Pisa. No, non parlo di dottore. Ti vedi te, i direttori sono sotto l'altro. Il direttore non lo sentiva, buh. Io stavo dicendo che la scuola fa mezzo al torreme e non si può più su nulla di cosa ha detto nel banco. Ti prendi subito, arrivo subito, lo prendi Luca. Vabbè, lui chiama Maria Podoscara qui, Io? Io attore. Campo. Sei vicino a me, dai. E può passare il radio sì comunque. Ah, no, va bene, dai, niente, dai, avanti, Marchese, l'ho ascoltato adesso. Sì, l'ho ascoltato, a scarica, però l'ho ascoltato. Ora è il mio momento, oppure per me è negativo. Cristian, spostati un po' più verso, diciamo così, la veloce. Chi è questo dalla chiesa? Ok, ciao Cristian, buonasera, buon sentito, alla prossima. Avanti Luca. Ciao Cristian, alla prossima, ciao, avanti tu. Ciao Cristian, se mi copri almeno lo so tu. Ci sentiamo alle prossime. Stai dentro. Avanti. Avanti un bruscio. Ci vuole dentro, manino. Così non lo vede il tempo piccolino. Ma io mi sono messo di alto, facciamo freddo. Anche la cagnolina si posa, è brutto, si dice a freddo, ma nada. No, non ho capito, non ha bisogno di compensa. Ma ti pare che se non mi fa correre? Ma ti sei bussato? Ah, sono sempre, sempre sul punto con il scrisolato con la tua esterna. Boh? Scatto, lì in mezzo al QRM, ti porti appresso il QRM, ti porti appresso. Allora, Luca, anche a te. Negativo, l'avessi perfetto, quando scala, radio Super 5. È tutto benissimo. Fare una cosa, metti con il coso lì, con le specie di palacchino, metto le trattazioni con la spazzatura, con la mattina che lo ritirano. Certo che andiamo bene, andiamo. No, andiamo mai. Prova a avvicinarti per più il microfono alla bocca, vedi? Ah, guarda adesso, guarda se ti va bene. Ah, ecco, va, andiamo bene. Posso ancora rivelarmi tipo lontano. Dopo, andiamo a esame, Marino. Marino si è allontanato, forse è arrivata a gente. Sì, perché sono qui sul collocamento. Ma ci vedi domani? Andiamo e andiamo. Dopo si tutto, se si è presentato sul collocamento. Non ho capito, Marino. Marino, se si presenta, vai, se non qui c'è collocamento da Marino. Ah, allora, sei su, Tony, fai domanda per la situazione. Andiamo, andiamo, dai, dai, sì. Vabbè, quindi siamo a sessione. Oh, yeah. Roba d'Italia. E poi nell'Italia forse la guerra, so. Sì, non dirla a me. Non dirla a me. E così, e Luca ha pigliato la sua esa. Ma cosa ha fatto la mia vita? No, ora è questa, ma che... Praticamente, boh, c'è molto male di testa, ma di me non passerà più. Stamattina proprio me la passa, vedi. Poi c'è una bustina, non mi è passato. Oh, nulla. Sono a parte sinistra, a parte dell'occhio, lì. La tizia. Io non sono a pressione alta, no? Che tu la fossi di quello lì. Negativo, l'ho usato la pressione ieri era 117, 81 mi pare. Sì, è in strada, ok.

benissimo, capita in questo periodo? Parlo di donne. E ho detto, non è quello di donne in questo periodo. E già fatta, a più bene. Non lo parlo parte. Ha sempre quel buco sotto il piede, quello lì è. E il buco sotto il piede. Ah, ecco, poi si tira fuori facendo i pesanti. Vai, voglia. Casino, vai già. E se vuoi, ci guarda, ci vuoi qua. Molto poi qui mi succede la stessa cosa. Lo so già, diciamo che hai anche 36 anni di quante decise a 36 anni, credo che sì, grazie al lavoro degli altri, a posto tuo, ho detto, adesso lavoro gli altri a posto tuo. Sì, vabbè, la so, vedo per il tuo, dai. Questo era l'ideale, la giornata. Solo che purtroppo le giornate sono fredde, anche se c'è il sole. Le giornate sono fresche. Infatti, ma ci deve essere una bella giornata per farlo, il risultato è tutto, soprattutto. Io sento, se posso, sai come mi voglio fare la mamma. Non mi costa niente. Ma comunque non ha bisogno, non ha bisogno di caratura questa antenna. Ma è già pronta. Sì, male il tempo per fare, per girarsi e queste altre cose. Per fuoco, non bisogna. Ma vabbè, io non avevo così la isolante. No, la isolante. Thank you. Ciao Gianni, ci sentiamo domani, ciao ciao, buona vita, grazie e buona certa.